Il treno regionale Aga, delle ore Voltrn, proveniente da Zgak, è diretto ad Azigm, è in arrivo al binario Spustfakt. Il treno suburbano 13, delle ore 13 e 17, porta Stiga. Merda, stazione di merda. Attenzione! È vietato servirsi del sottopassaggio in attesa dei treni. Attraversare la linea gialla appena si gira il capostazione. Il treno regionale 10.8.4.8, delle ore 16.52, proveniente da Chiasso, è diretto a Milano Porta Garibaldi, oggi non sarà effettuato, perché ho i coglioni girati. Annuncio ritardo. Il treno regionale 10.1.1.2, delle ore 7.04, proveniente da Chiasso, è diretto a Milano Porta Garibaldi, arriverà con 15 giorni, 47 ore e 32 minuti di ritardo. Informiamo i viaggiatori che il treno in arrivo al binario primo tronco termina la corsa con una esplosione. Annuncio ritardo. Il treno regionale 8.9.2.8.9.2, delle ore 15.06, è in ritardo. Il treno regionale 10.5.8.7, delle ore 15.08, proveniente da quel paese, è diretto a Fanculo, è in arrivo al binario X. Ferma una stazione sì e una no. Si avvisano i viaggiatori che è severamente vietato trattenere il respiro al passaggio degli zingari in carrozza. Annuncio ritardo. Il treno suburbano 32, delle ore 7.57, arriverà. Prima o poi arriverà. Il treno regionale 10.8.4.0, delle ore 17.22, proveniente da Milano Centrale, è diretto a Chiasso, è in arrivo al binario 753. Se vi trovate al binario 1, sono cazzi vostri. Informiamo i viaggiatori che il treno in arrivo al binario 1 non esiste. Daesio, stazione di Daesio. Il treno regionale 10.8.4.1, delle ore 11.02, farà finta di fermarsi al binario 2, e ripartirà subito dopo, per prendervi per il culo. Il treno regionale 10.6.5.4, delle ore 14.07, proveniente da Chiasso, è diretto a Chiasso, vi sembrerà impossibile, ma è in ritardo di 10 minuti. Inutile scusarsi per il disagio, perché, come è giusto che sia, ci manderete lo stesso a fare in culo. Buon viaggio!